Allora, parliamo di un evento questa settimana, un evento che si terrà in maniera un pochino diversa rispetto a quello che ci aspettavamo, ma fortunatamente effettivamente è stata mantenuta questa edizione. Stiamo parlando del Barezzi Festival, che si terrà il prossimo weekend, tra pochissimi giorni. Siamo al telefono con il direttore artistico Giovanni Sparano, grazie per essere qui con noi. Salve. Grazie. Io intanto farei una domanda che riguarda la storia del festival, prima di addentrarci un po' su come si svolgerà questa edizione, che sarà inevitabilmente un pochino diversa, diciamo, rispetto a quelle degli anni precedenti. Ecco, vorrei un po' capire qual è la storia del Barezzi Festival. Ma il Barezzi nasce 14 anni fa in un caffè di Parma, il Caffè dei Marchesi, nasce come concorso che aveva la prerogativa di sulla storia di Barezzi che ha esperto Giuseppe Verdi, di dare l'opportunità a tantissime band di non cover di presentarsi, fare la propria performance e con l'obbligo di rivisitare un brano di Giuseppe Verdi secondo il proprio stile, quindi rock, jazz, classica. Poi decidemmo di unire al concorso il festival e quindi scrivemmo un festival che si contraddistingueva con l'invito di molti personaggi che si erano confrontati nella loro carriera con la musica folk. Decidemmo di scrivere Abbattiato, il quale accolse questa proposta e venne alla seconda edizione del festival gratuitamente. E da lì, diciamo, le istituzioni si accorsero di noi e quindi dal 2008 fino ad oggi il nostro percorso è stato abbastanza evolutivo con molti artisti come Philip Glass, Bollani, per l'appunto Battiato, Jacob Bannerman, Benjamin Clementine, Michael Kiwanuka. E siamo approdati dal 2010 al Teatro Reggio, che è oggi la nostra casa. C'è un forte legame tra Reggio, Giuseppe Verdi, Barezzi. Immagino anche con la città, che tra l'altro Parma è una città che a livello di cultura è sempre molto importante. Infatti io poi volevo anche chiedere qual è il vostro rapporto con Parma, appunto con la città che vi ospita, e anche col Teatro Reggio, che è un'istituzione estremamente importante. Ma a Parma diciamo che questo festival non potrebbe non farsi qui a Parma, perché è letteralmente legato alla storia di questo territorio, proprio perché l'appendice è la dedica a questo grande personaggio che fu il mecenate di Giuseppe Verdi. Devo dire che questo è un festival virtuoso, perché è nato, come dicevo prima, in un bar, quindi poi piano piano ha ricevuto, diciamo, l'appoggio di tanti enti e istituzioni, tra cui il Comune di Parma. È nato con l'associazione e poi dal 2018 è entrato all'interno della Fondazione Teatro Reggio, quindi adesso siamo parte di questa fondazione lirica. Quindi io con la mia associazione mi occupo della direzione artistica, della comunicazione, e naturalmente siamo proprietari del concept, del logo, però c'è un fortissimo legame con questa città, che devo dire in termini di cultura ha sempre investito e continua a sostenere realtà come la nostra. Per quanto riguarda invece il concorso che ha nominato all'inizio, insomma, parlando appunto della nascita di questo festival, è ancora attivo? Esiste ancora questo concorso oppure no? Allora, il Barezzi, il concorso non esiste più, però esiste un contest che si chiama Barezzi, che però quest'anno per vari motivi legati al Covid non abbiamo potuto organizzare, dove abbiamo abbandonato questa idea, che per noi è un po' obsoleta, quella del concorso, quindi far giudicare i ragazzi da qualcuno, ma è un contest a chiamata, cioè noi con una nostra commissione interna scegliamo quelli che sono i ragazzi più promettenti della scena cantautorale italiana, e li invitiamo in questo contest che si chiama Barezzi Road, che normalmente si fa un mese prima del festival, dove diciamo tutti gli ospiti in due serate devono devono proporre due pezzi del proprio repertorio, un omaggio a Giuseppe Verdi, una serata spettacolo. Quindi è rimasta un po' l'impostazione iniziale, insomma. Assolutamente, sì, sì. E invece per quanto riguarda i musicisti che invece prendono parte non al contest ma al festival, sono sempre musicisti molto importanti e che variano anche nei generi musicali. Come scegliete gli artisti del cartellone, insomma, del programma del Barezzi Festival? Ma allora noi scegliamo gli artisti prima di tutto in base all'eccellenza internazionale, tranne quest'anno dove purtroppo per motivi legati agli spostamenti non abbiamo potuto ospitare artisti internazionali, però cerchiamo sempre di veramente mettere al primo posto l'internazionalità della proposta e soprattutto una ricerca legata al confronto che hanno avuto questi artisti anche con altri generi anche con la musica corta, quindi tutti quelli che sono venuti hanno veramente, prima di tutto sono venuti con un'esclusiva nazionale, faccio un esempio l'anno scorso di Apparat tributo al Teatro Reggio che ha fatto questo suo spettacolo elettronico ma anche suonato con i violini, quindi c'è sempre una pendice legata alla musica classica e corta. Quest'anno invece è la prima volta, devo dire, che è un festival di genere, non è più trasversale come le altre edizioni, ma è un vero e proprio festival legato all'indie italiano, quello che c'è di meglio quest'anno, in questo periodo, della musica e degli artisti indie. Il lato ci sarà questo concerto di Dario Brunori con l'orchestra toscana. Sono apposta per la 14ª edizione del Barezzi. Direi che a questo punto è arrivato il momento di parlare effettivamente di questa edizione. Adesso abbiamo parlato un po' della storia del festival in generale. Invece questa edizione fortunatamente ci sarà, insomma. È un'edizione un po' ridotta, se non sbaglio, giusto perché si chiama tra l'altro Gemme, avete un po' cambiato il nome, però la riuscirete a fare comunque in streaming. Allora io vorrei chiedere intanto, prima di parlare effettivamente dell'edizione in sé, come mai avete fatto questa scelta, che comunque immagino sia una scelta molto rischiosa e che ha comunque dei risvolti anche economici importanti. Ecco, come mai avete scelto comunque di fare questa edizione online? Ma allora, io sono un testardo per natura e comunque Barezzi per me è come se fosse un primo zenito, e pensare di non riuscire a realizzare questa edizione mi faceva star male veramente, quindi questa è stata un'idea pensata e partorita durante il lockdown, quindi parlo di febbraio-marzo e considerando che all'epoca c'era speranza per il futuro, io già mi ero posto il problema di un possibile ritorno della pandemia. L'idea era quella di associare la possibilità di andare live, quindi noi con il penultimo DPCM eravamo ancora con 70-80% di vendite di biglietti, l'orario era già tutto esaurito, quindi noi avevamo comunque pensato a una versione ridotta live, poi i teatri l'hanno chiuso, ma diciamo che questa dello streaming è stata una scelta ahimè dolorosa, perché io comunque preferirei come fruitore di musica di vedere i concerti dal vivo, e quindi abbiamo pensato di comunque dare continuità al progetto e dare anche l'opportunità al mercato italiano di poter emergere, di comunque far lavorare, diciamo, un settore che è stato martoriato in questo anno. E abbiamo pensato comunque di uscircene con la creatività di portare il Teatro Reggio come protagonista e farlo diventare un set cinematografico, con delle soluzioni diverse normalmente da quando uno va a vedere lo spettacolo al Teatro Reggio, prima di tutto per gli spettacoli, diciamo, che erano pensati al Teatro Reggio, come quello di Brunori, come quello di Massimo Volume e Andrea Laszlo De Simone, gli artisti suoneranno con la platea alle spalle, quindi, e quindi la camera sul palcoscenico, così da poter far vedere al pubblico che è a casa una prospettiva completamente diversa del Teatro Regio, con i palchi, con gli stucchi, con il lampadario a vista. E poi per i concerti che erano pensati gratuiti, spazi completamente off come la sartoria del Teatro Regio, la soffitta del teatro, oppure lo stesso foyer dove normalmente non si fanno concerti ma si assembrano persone prima di entrare in sala. Riguardo insomma ai nomi invece che suoneranno, perché qualcuno è già saltato fuori insomma in questa risposta, però suoneranno davvero tantissimi artisti nei giorni del festival, insomma ne parliamo un po' più approfonditamente? Sì, tranne con la Pesce di Martino, che non se la sono sentiti di venire a Parma, tutti gli altri artisti hanno accettato questa sfida e comunque li devo ringraziare perché verranno lo stesso in questa città e suoneranno in teatro, quindi non sarà un live stream da casa. E devo dire, ci sono artisti che già abbiamo avuto al Barezzi, come Colombre, che io apprezzo tantissimo, con lo stesso Brunori, che è venuto nel 2014. E ci sarà Andrea Ladru di Simone, che secondo me è uno dei più interessanti cantautori che oggi abbiamo in Italia. E poi abbiamo Ettore Giuradei, Valentina Polinori, Guido Maria Grillo, che è stato un cantautore che è stato prodotto 2 anni fa da Barezzi stesso. E non vorrei dimenticare nessuno. Abbiamo Fadi, che questo ragazzo che ha una voce incredibile, che per esempio suonerà nel palco reale dove normalmente le persone non suonano ma vanno a vedere i concerti. Benissimo, per quanto riguarda invece la possibilità di fruire dei concerti, abbiamo visto che ci sono dei biglietti a dei prezzi veramente popolari e che sono suddivisi appunto per giornata. Una giornata c'è un costo, una seconda giornata invece il costo è differente, oppure c'è un biglietto cumulativo che permette di vedere 11 spettacoli, se non sbaglio. Sì, allora c'è da dire questa cosa importante: i live streaming sono 3 e sono quelli lì di Brunori con l'orchestra, quindi streaming in diretta a massimo volume, e Andrea Laszlo De Simone. Il costo totale dell'abbonamento è di circa 20 euro, se non sbaglio, sono 19 e passa. E per chi compra l'abbonamento ci sono questi contenuti registrati, che sono questi concerti registrati il giovedì, quindi il giorno prima, all'interno di questi spazi. Quindi chi compra per esempio il biglietto di Brunori ha la possibilità di vedere Guido Maria Grillo, Fadi, chi invece compra quello lì di massimo volume e di Andrea Laszlo De Simone può vedere i contenuti di Margherita Vitario, che non ho citato prima, e Ettore Giuradei e gli altri. Quindi diciamo è una bella opportunità sia per ascoltare un bel po' di talenti che sostenere la musica e la cultura in modo diverso. In questo momento ce n'è un gran bisogno, tra l'altro. Sì, tantissimo. E i biglietti sono disponibili sulla pagina del Teatro Regio, quindi teatroreggioparma.it, e lì si accede a questa piattaforma Zeie, è abbastanza semplice, con un clic si entra e si paga. Perfetto, allora direi che abbiamo parlato ampiamente di questa edizione, siamo molto contenti che ci sarà comunque la possibilità di ascoltare questi grandi artisti e poi anche di vedere appunto il Teatro Regio dall'interno, cioè riuscire a vederlo in un qualche modo. Quindi ci vediamo il 13 e 14, diciamo ci vediamo, sì, Online, insomma, e grazie mille per la disponibilità. Dalle 19, grazie a voi.